Una ferita di assassini, avverte Antonio Padellaro in un libro uscito nel 1995 per i tipi di Baldini e Castoldi. Il sottotitolo di questo breve volume di cui si occupa questa puntata di A Parole in Breve aggiunge che si tratta del caso Fenaroli e di altri misteri italiani. Partiamo dai secondi e da un nome famigerato, è quello del generale Giovanni De Lorenzo che, prima di essere comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, fu alla guida del SIFAR, il Servizio Informazioni delle Forze Armate, ma non viene ricordato tanto per ragioni di carriera. Di lui, infatti, si rammenta di più il ruolo che ebbe nel cosiddetto Piano Solo, un progetto golpista da attuare nell'estate del 64 attraverso l'occupazione di centri nevralgici dello Stato, non escluse le sedi della RAI, e attraverso l'esfiltrazione di personaggi del mondo politico e sindacale. Tuttavia, all'interno degli stessi servizi segreti ci deve essere stato qualcuno che di De Lorenzo non conservava un buon ricordo. Era Enrico De Grossi, ex ufficiale del SIFAR, che nel dopoguerra si era distinto per meriti di servizio, ma che, inviato in Ungheria negli anni 50 e sequestrato dal controspionaggio nemico, si vide liquidare dalla vita militare senza troppi complimenti. Ripiegò De Grossi verso una vita in abiti civili che gli andavano stretti. Ma un po' per vendetta e un po' per giustizia, contribuì quando si trattò di accertare le malefatte dei servizi segreti. Accadde, per esempio, quando esplose lo scandalo dei fondi neri del SISDE, inchiesta in cui venne a galla l'utilizzo disinvolto e non istituzionale dei finanziamenti che il Ministero degli Interni metteva a disposizione dell'intelligence civile. Nell'economia di questa storia, raccolta da Padellaro nei primi anni 90, però è un'altra la vicenda che Enrico De Grossi racconta al giornalista, futuro direttore del quotidiano Il Fatto. È quella di un delitto commesso nella notte tra il 10 e l'11 settembre 1958, quando a Roma fu assassinata una donna, Maria Maritano, moglie di un imprenditore edile dai modi fin troppo laschi in fatto di etica degli affari. E proprio il marito della vittima, Giovanni Fenaroli, fu accusato di essere il diabolico artefice del piano delittuoso. Lo ideò, dunque, e per metterlo in pratica si servì di un giovane, Raul Ghiani, dal futuro incerto ma senza apparenti tendenze criminali. L'accusa ricostruì in termini così efficaci questo sodalizio, imperniato intorno a un'assicurazione sulla vita, che i due vennero condannati all'ergastolo e Fenaroli in carcere morì all'inizio degli anni 70. Eppure qualcuno ha sempre nutrito dei dubbi. Al di là dei sostenitori della fronda innocentista, nata da uno dei casi mediatici che negli anni 50 regalarono ai lettori dei quotidiani, c'era l'ex agente segreto De Grossi a sostenere che Fenaroli un farabutto lo era, ma non fino al punto di uccidere la moglie. Farabutto però lo sarebbe stato abbastanza da minacciare rivelazioni imbarazzanti in fatto di tangenti che avrebbero coinvolto l'ente idrocarburi, l'ENI, ben prima dell'esplosione in aria del suo patrono Enrico Mattei, così ucciso 4 anni più tardi, nel 1962. E proprio nel ricatto messo in piedi dall'imprenditore Fenaroli e sostenuto ed anzi bypassato dalla signora Maritano nei propositi estorsivi, andava ricercato, secondo De Grossi, il movente di un delitto che doveva fermare un personaggio ridotto sul lastrico e dunque ben pericoloso. E al giornalista Padellaro disse in proposito il militare a riposo: ero stato messo a conoscenza di un terribile segreto, ma occorreva dimostrare che la traccia lasciatami dall'anonimo nemico di De Lorenzo portava effettivamente alla soluzione del giallo. Ho indagato per anni alla ricerca di questa verità. Credo di averla raggiunta con un certo grado di certezza, ma forse è una verità che ormai non serve più a nessuno. È solo un missile, canta Robin Gray, e non è andato a segno, dato che nessun effetto ha avuto, almeno sulla storia giudiziaria di questo caso, e neanche sulla verità storica di questo paese. Comunque è un tassello da aggiungere al proprio puzzle personale per conoscere, dubitare, indagare e aggiungere un nuovo interrogativo, il cui valore, forse, non è inferiore a una certezza che comunque stride.